ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La visita alla fattoria. Quando la bimbetta di Skrolika aveva quasi 5 anni, il pomeriggio di una domenica Jan Andersson la prese per mano e si camminarono insieme su per il bosco. Passarono senza fermarsi davanti all'ombreggiato boschetto di betulle, dove avevano l'abitudine di sedersi. Passarono davanti al pendio delle fragole, passarono persino accanto al Tvatbak, il serpeggiante ruscello del bucato, senza fermarsi. Camminavano tenendosi per mano seri e silenziosi, come a dimostrare che era qualcosa di solenne a guidare i loro passi. Scomparvero a ponente, dove il bosco era più fitto, ma neppure là si fermarono, finché a poco giunsero in vista del dosso boscoso che sovrasta l'Öbi. Da lì scesero al bivio dove la strada maestra si incrocia con quella del villaggio, e ora finalmente si sarebbe visto dove erano diretti. Ma non andarono né a Nasta né a Nista, e non guardarono né Darfram né Poval. Proseguirono ad entrare sempre nel villaggio. Tuttavia restava impossibile capire dove stessero andando, perché non poteva mica essere a Björn Hindriksson di Löby che volevano far visita. È vero, si intende, che la moglie di Björn Hindriksson era la sorellastra della madre di Jan. Quindi Jan in realtà era imparentato con i più ricchi del comune e aveva il diritto di chiamare Björn Hindriksson e sua moglie zio e zia. Ma finora Jan non aveva mai dato a vedere di ricordarsene. Era già tanto se aveva detto una volta a Katrinna di avere parenti così altolocati. Si era sempre tenuta alla larga da Björn Hindriksson. Neppure quando si fermavano a chiacchierare davanti alla chiesa gli capitava di avvicinarsi a salutarlo e stringergli la mano. Ma ora, ora che aveva una figlioletta così straordinaria, Jan non era più soltanto un povero bracciante. Ora aveva un tesoro da mostrare e un fiore di cui fregiarsi. Era ricco con i ricchi e potente con i potenti. Andava quindi dritto verso la grande casa padronale di Björn Hindriksson, con l'intenzione di far visita ai suoi distinti parenti per la prima volta della sua vita. Non durò molto la permanenza nella fattoria. In capo a meno di un'ora, Jan e la bimbetta attraversarono di nuovo il cortile e furono davanti al cancello. Ma arrivato lì, Jan si fermò e si guardò indietro come se avesse voglia di ritornare sui suoi passi. Non che dovesse pentirsi di esserci andato. Erano stati bene accolti da tutti i punti di vista. La moglie di Björn Hindriksson aveva subito portato con sé la piccina davanti all'armadio verniciato di azzurro, che stava al centro della lunga parete, e le aveva dato un biscotto e una zolletta di zucchero. E lo stesso Björn Hindriksson aveva voluto sapere quanti anni aveva e come si chiamava. E poi aveva aperto il grande borsellino di cuoio che teneva nella tasca dei pantaloni e le aveva regalato una luccicante monetina. A Jan era stato offerto il caffè. E sua zia si era informata di Katrinna e aveva domandato se avessero mucca e maiali, se la casetta fosse fredda d'inverno, se guadagnava abbastanza da Eric di Falla da poter vivere senza indebitarsi. No, non c'era niente nella visita in sé per sé che infastidisse Jan. Dopo che era rimasto un po' a parlare con Björn Hindriksson, gli avevano fatto sapere, e anche in questo caso non c'era niente da ridire, che erano invitati a un ricevimento quel pomeriggio e dovevano andare via entro mezz'ora. Jan aveva capito che avevano bisogno di un certo tempo per prepararsi e si era alzato per salutare. Ma allora la zia si era affrettata verso la credenza e ne aveva tirato fuori burro e carne. Aveva riempito un sacchetto di grano e un po' di farina e aveva regalato tutte insieme in un pacco che aveva immesso in mano a Jan nel congedarlo. Era una piccola provvista per Katrinna, aveva detto. Doveva ben avere una ricompensa lei per essere rimasta a guardia della casa. Era su quel pacco che Jan stava lì a rimuginare. Capiva bene che lì dentro c'era un'infinità di cose buone, anzi, ottime, e di quelle che a Skrolika si sognano ad ogni pasto. Ma accettarla gli dava l'impressione di fare un torto alla bimbetta. Ecco, lui non era venuto da Björn Hindriksson come un mendicante, ma per salutare i parenti. Non voleva che dovessero fraintendere la cosa. Ci aveva già pensato quando era ancora in casa. Ma il suo rispetto per Björn Hindriksson e sua moglie era così grande che non se l'era sentita di rifiutare. Ma arrivato al cancello tornò indietro e depose il pacco vicino all'angolo della scuderia, dove i servi passavano e non avrebbero potuto fare a meno di vederlo. Gli fece male lasciarlo. Ma la bimbetta non era una figlia di mendicanti. Nessuno doveva prenderli, lei e suo padre per gente che andava in giro a elemosinare. L'esame. Quando la bimbetta aveva 6 anni, Jan di Skrolica si recò una mattina di primavera alla scuola di Ostenby per assistere all'esame. Era la prima scuola costruita nel circondario e a tutti sembrava molto bello che fosse stata realizzata. In precedenza il sacrestano Svartling non aveva trovato altro ripiego che andare in giro di fattoria in fattoria con i suoi alunni. Fino al 1860, anno in cui la nuova costruzione fu pronta, il sacrestano era stato costretto a trasferire l'aula scolastica ogni 15 giorni, e molte volte lui e i suoi scolaretti avevano dovuto sedere in una stanza dove la massaia cucinava e il contadino lavorava il legno al bancone, dove i vecchi restavano a letto tutto il giorno e le galline avevano la loro piccola stia sotto la lunga panca fissata alla parete. L'insegnamento era andato bene ad ogni modo, perché il sacrestano Svartling era un uomo che sapeva mantenere rispetto in ogni circostanza. Ma certo dovette fargli un'impressione deliziosa poter lavorare in una stanza da non usare altrimenti che come aula scolastica. Qui non ci sarebbero stati armadi letto a occupare le pareti, né mensole con i piatti, né strumenti di lavoro. Non ci sarebbe stato nessun telaio a togliere la luce davanti alla finestra, dove era più chiara, e nessuna vicina sarebbe venuta a chiacchierare e a prendere il caffè durante l'orario scolastico. No, qui il sacrestano poteva appendere al muro figure della storia biblica, tavole di animali e ritratti di re svedesi. Qui i bambini avevano veri banchi a sgabelli delle loro dimensioni, senza doversi arrampicare intorno ai tavoli troppo alti, dove talvolta non arrivavano neppure col naso. E il sacrestano Svartling aveva una sua cattedra con scaffali e scomparti dove tenere i suoi grandi registri, e lì seduto, aveva ben altra dignità di prima, quando tante volte aveva dovuto provare le lezioni accucciato sulla pietra del focolare, con un gran fuoco alle spalle e la squadra di bambini accoccolati davanti a lui sul pavimento. Qui aveva un posto fisso per la lavagna, e ganci per le carte geografiche e le tabelle, e non aveva bisogno di fissarle alle porte degli armadi o ai coperchi delle cassapanche, come doveva fare prima. Ora sapeva dove tenere le penne d'oca, e poteva mettersi a insegnare ai bambini a tracciare le aste e i tondi, così che tutta la parrocchia avrebbe finito ad avere una calligrafia bella come la sua. Adesso era possibile insegnare ai bambini ad alzarsi tutti insieme a tempo e a uscire in fila come soldati. Non c'era limite ai miglioramenti che si potevano introdurre adesso che c'era una vera scuola. Anche se tutti erano soddisfatti, questo non impediva che i genitori si sentissero un po' intimiditi dai loro bambini da quando avevano incominciato a frequentarla. Era come se i bambini fossero penetrati in un mondo nuovo, raffinato, dove i genitori non avevano accesso. Ma non era giusto prenderla così. Dovevano invece essere contenti che i loro figli potessero godere di un bene così grande di cui loro stessi erano stati privati. Il giorno in cui Jan di Skrolica si recò alla scuola per l'esame, camminava tenendo la piccola Clara Gulla per mano come sempre, e fecero tutta la strada insieme, da buoni amici e compagni. Ma quando giunsero in prossimità della scuola e Clara Gulla vide i bambini che stavano radunati là fuori, ritirò la mano da quella del padre e passò dall'altra parte della strada. E appena arrivati, l'abbandonò del tutto e corse a unirsi ai compagni. Durante l'esame, Jan di Skrolica prese posto vicino alla cattedra del maestro, proprio in mezzo alle personalità e ai membri del consiglio scolastico. Non aveva altra scelta, altrimenti non avrebbe potuto vedere che la nuca di Gulla, che sedeva al primo banco, a destra della cattedra, dove erano tutti più piccoli. Prima non si sarebbe mai sognato di mettersi così in vista, ma uno che era padre di una bimbetta come Clara Gulla non doveva sentirsi inferiore a nessuno. Era impossibile che Clara Gulla non vedesse il padre dal suo posto, eppure non gli rivolse nemmeno uno sguardo. Era come se Jan non esistesse per lei. Invece gli occhi di Clara Gulla non lasciavano un istante il maestro. Stava interrogando i bambini grandi che si trovavano alla sinistra della cattedra. Questi dovevano leggere ad alta voce e indicare regioni e città sulla carta e fare i conti alla lavagna. Perciò il maestro poteva a stento guardare i piccoli alla sua destra. Non sarebbe stato quindi tanto grave se Clara Gulla avesse gettato un'occhiata di sfuggita a suo padre, e invece non volse neppure la testa dalla sua parte. Un po' di consolazione comunque veniva a Jan dal fatto che tutti i bambini si comportavano esattamente come lei. I loro limpidi occhietti erano fissati sul maestro e i furbetti davano a vedere di capire quando lui diceva qualcosa di spiritoso, perché subito si scambiavano gomitate e scoppiavano a ridere. Era una vera sorpresa per i genitori vedere i bambini comportarsi così bene all'esame. Ma il sacrestano Svartlik era un uomo straordinario. Sapeva ottenere dai suoi allievi quel che voleva. Jan di Skrolika, da parte sua, cominciò a sentirsi imbarazzato, ansioso. Non sapeva più se era la sua bambinetta quella che sedeva là o la figlia di un altro. Tutto a un tratto si alzò dal suo posto in mezzo e si trasferì più vicino alla porta. Finalmente, quando i bambini grandi erano stati interrogati a sufficienza, venne il turno dei piccoli, che a malapena avevano imparato a leggere. Non avevano grandi riserve di sapere, ma qualche domanda bisognava pur farla anche a loro. Così gli avrebbe fatti parlare un po' della storia della creazione. Prima dovettero rispondere alla domanda: chi ha creato il mondo? E questo seppero spiegarlo. Ma poi, sfortunatamente, accadde che il maestro domandasse se conoscevano qualche altro appellativo di Dio. Allora rimasero lì, come somari, quanti erano. Diventarono tutti rossi, aggrottarono la fronte, ma era proprio impossibile inventarsi una risposta a una domanda così complicata. Nei banchi dei grandi ci fu un gran gesticolare di mani e bisbigli, risate. Ma gli 8 piccoli principianti si mordevano le labbra e non trovavano neanche una parola da dire, né Clara Gulla né nessun altro. «C'è una preghiera che diciamo tutti i giorni», suggerì il maestro. «Lì come chiamiamo Dio?» Ora sì che Clara Gulla ci arrivò. Capì che il maestro voleva che dicessero che chiamavano Dio Padre, e alzò la mano. «Come chiamiamo Dio, Clara Gulla?» ripeté il maestro. Clara Gulla si alzò dal suo banco, con le guance in fiamme e il codino della treccia che spuntava dritto dalla nuca. «Lo chiamiamo Jan», rispose a voce alta e chiara. Una risatina a stento trattenuta serpeggiò per la classe. Personalità, membri del consiglio scolastico, tutti cresparono le labbra e persino il maestro si lasciò sfuggire un'espressione divertita. Clara Gulla arrossì e le vennero le lacrime agli occhi, ma il maestro batté la bacchetta sul pavimento e gridò «Silenzio!». Poi aggiunse qualche parola di spiegazione. «Certamente era padre che Clara Gulla voleva dire», disse. «E invece ha detto Jan, perché suo padre si chiama Jan. Ma non dobbiamo meravigliarci tanto di questa bimbetta, perché non so se c'è un altro bambino in tutta la scuola che ha un padre così buono come il suo. L'ho visto stare ad aspettarla qui fuori dalla porta alla pioggia e alle intemperie. L'ho visto arrivare portandola in braccio quando c'era la bufera e la strada era piena di neve. Non c'è da stupirsi se lei dice Jan per indicare la cosa migliore che conosce». Il maestro carezzò sulla testa la bimbetta e i presenti si misero a ridere, sentendosi al tempo stesso commossi. Clara Gulla sedeva ad occhi bassi e non sapeva cosa fare, ma Jan di Skrolika era felice come un re, perché all'improvviso aveva capito che la bimbetta era sempre sua e di nessun altro. La gara. Era strano fra la bimbetta di Skrolika e suo padre. Sembravano tagliati nella stessa stoffa, tanto potevano leggersi a vicenda nel pensiero. A Svarzio c'era un maestro, un vecchio soldato. Insegnava in una vasta zona del circondario e non aveva una scuola come il sacrestano, ma era adorato da tutti i bambini, che non si rendevano nemmeno conto che da lui andavano a scuola. Erano convinti di stare semplicemente insieme a giocare. C'era la più grande amicizia fra i due maestri, ma qualche volta capitava che il più giovane cercasse di convincere il vecchio a seguire i tempi e ad adottare un metodo fonetico e altre novità. Il vecchio in genere subiva pazientemente quei tentativi, ma, non si sa come, una volta si arrabbiò. «Fai così il presuntuoso, Svartling, perché ti è andata una scuola», disse. «Ma ti assicuro che i miei bambini sanno leggere bene quanti tuoi, anche se non abbiamo che casolari per far lezione». «Sì», rispose il sacrestano. «Lo so benissimo, e non ho mai detto il contrario. Voglio soltanto dire che i bambini potrebbero imparare con meno fatica». «Già, che cosa dunque?» chiese il vecchio. Il sacrestano sentì della voce che l'aveva ferito e cercò di tirarsi indietro. «Certo che in ogni modo tu rendi tutto così facile ai tuoi bambini che non hanno mai da lamentarsi dei compiti». «Forse rendo tutto troppo facile? Forse non insegno niente?» sul tavolo. «Ma che ti succede oggi?» «Per amor del cielo, Tiberg», domandò il sacrestano. «Te la prendi a ogni parola che dico. È tu che continui a fare delle allusioni». Nel frattempo arrivò altra gente, e la questione fra i due maestri fu appianata, e al momento di lasciarsi erano buoni amici come sempre. Ma quando il vecchio Tiberg si trovò solo sulla strada di casa, gli tornarono alla mente le parole del sacrestano, e si arrabbiò quasi ancora più di prima. «Perché poi questo ragazzetto deve venire a dirmi che potrà insegnare più cose ai bambini se seguisse i nuovi tempi?» pensava. «Certo, pensa che sono troppo vecchio, anche se non vuol dirlo a chiare lettere». Non riusciva a vincere il suo malumore, e, arrivato a casa, raccontò tutto alla moglie. «Non te la prenderai per quel che dice il sacrestano. Più giovane, più facile. Ma più vecchio, più giusto, dico io. Siete tutti e due bravi maestri, tanto tu che il sacrestano». «Sì, ma a che serve che tu dica così?» obiettò il marito. «Gli altri credono quel che credono, ad ogni modo». Per qualche giorno si aggirò con un'espressione così cupa che la moglie ne fu veramente in pena. «Non puoi dimostrar loro che hanno torto, allora?» domandò. «Dimostrare che cosa? Che cosa vorresti dire?» «Voglio dire che se tu sai che i tuoi soldati sono bravi come quelli del sacrestano...» «Certo che lo so!» «Beh, allora chiedi che i vostri bambini vengano esaminati insieme». Il vecchio fece finta di non badare alle sue parole, ma era evidente che l'idea l'aveva colpito. E qualche giorno dopo, il sacrestano ricevette una lettera nella quale il maestro proponeva che i bambini delle due scuole potessero misurarsi a vicenda. Sì, il sacrestano non aveva niente in contrario, ma espresse il desiderio che la gara avesse luogo durante le vacanze di Natale, in modo da poterne trarre un piccolo diversivo per i bambini senza dover chiedere l'autorizzazione al consiglio scolastico. «È stata proprio una bella idea», pensava il sacrestano. «Potrò anche fare a meno di dare ripetizioni per questo semestre». E davvero non ebbe bisogno. Era addirittura impressionante quanto si leggeva e si sgobbava nelle due scuole. La grande competizione doveva avere luogo la sera dopo Natale. La classe era decorata di rami di abete sui quali splendevano tutte le candele rimaste in chiesa dopo la funzione di Natale. C'era una tale abbondanza di mele che ne sarebbero toccate almeno due ad ogni bambino. E correva voce che ai genitori e ai parenti venuti ad ascoltare i bambini sarebbe stato offerto il caffè. Ma naturalmente era la gara che restava la cosa più importante. Da un lato della classe sedevano i bambini di Tiberg, dall'altro quelli di questa giornata. Ora si trattava di battersi per la reputazione del proprio maestro, perché Tiberg avrebbe interrogato gli allievi del sacrestano e il sacrestano avrebbe interrogato quelli di Tiberg. Se una classe non fosse riuscita a rispondere a una domanda o un calcolo, sarebbe toccato all'altra. E di ogni domanda si sarebbe tenuto il debito conto in modo da poter stabilire quale scuola si era maggiormente distinta. Toccò al sacrestano incominciare, ed era evidente che all'inizio procedeva con cautela. Ma appena si rese conto con che bambini capaci avesse a che fare, incominciò a far domande sempre più difficili. Era un vero piacere ascoltare i bambini di Tiberg. Erano così ferrati che non si lasciavano sfuggire una sola domanda. Poi fu la volta del vecchio Tiberg interrogare i bambini del sacrestano. Il vecchio non era più di cattivo umore, e poiché i suoi bambini avevano già mostrato di sapere il fatto loro, gli venne un'idea un po' maliziosa. Per cominciare, fece ai bambini del sacrestano qualche domanda regolare, ma dopo un po' non riuscì più a star serio, e diventò allegro, come era di solito nella sua scuola. «Sì, sì, lo so, voi avete studiato molte più cose di noi, che veniamo da un angolo sperduto della parrocchia», disse. «Avete studiato scienze naturali e chissà cos'altro, ma mi domando se c'è tra di voi qualcuno che sa dirmi come sono le pietre dell'ultimo monaco». Neppure uno dei bambini del sacrestano alzò la mano. Dall'altra parte invece se ne levarono una dopo l'altra. Nel gruppo del sacrestano c'erano Olof Olsson, quello che era convinto di avere il miglior cervello di tutto il circondario, e August Darnall, di un'ottima famiglia di contadini. E nessuno dei due era in grado di dir nulla. E c'era Karin Svens, la sveglia ragazzina che abitava la caserma, e non aveva mancato un solo giorno di scuola, e anche lei, come gli altri, non poteva che stupirsi e trovare ben strano che il sacrestano non avesse insegnato loro che cosa c'era di straordinario nelle pietre del fiume Motala. E poi c'era Clara Fina Gullenborg di Skrolika, che aveva avuto il suo nome niente di meno che dal sole. Eppure anche nel suo cervello c'era lo stesso buio che in quello degli altri. Il maestro Tiberg stava lì in piedi davanti a loro, e aveva un'espressione perfettamente seria, mentre il sacrestano era seduto, e fissava il pavimento con una profonda preoccupazione. «Non c'è altro da fare che ritirarsi su questa domanda», disse il maestro. «Pensare che tanti bambini così svegli non sappiano rispondere a una cosa così facile». All'ultimo minuto, Clara di Scrolica si volse a guardare Jan, come faceva sempre quando non sapeva più cosa fare. Jan era così lontano da Clara Gulla che non poteva suggerire la proposta. Ma appena la bambina incontrò lo sguardo del padre, seppe quello che doveva dire. Allora non si limitò ad alzare la mano. Si alzò addirittura in piedi, piccola com'era, tanto si sentiva infervorata. Si volsero tutti verso di lei, i compagni. Il sacrestano si mostrò lieto che i suoi bambini non dovessero ritirarsi. «Sono bagnate!» gridò Clara Gulla, senza aspettare che le ripetessero la domanda, perché non c'era più tempo. E un momento dopo pensò di aver dato una risposta così stupida da aver rovinato le cose a tutta la sua squadra. Si lasciò cadere al suo posto, scivolando quasi sotto il banco, perché nessuno la vedesse. «Sì, brava! È la risposta esatta, bimba mia», disse il maestro. «E meno male per tutti voi che ce n'è stata una che ha saputo rispondere, perché stavate proprio facendo la figura dei somari con tutta la vostra sicumera». Ci fu una gran risata fra i bambini delle due parti, anche fra i grandi. Qualcuno dovette perfino alzarsi in piedi per poter ridere meglio, altri si abbandonarono con la testa sul banco e addio ordine e disciplina. «Beh, penso che adesso potremmo anche spostare i banchi e fare quattro salti attorno agli alberi di Natale», disse il vecchio Tiberg. Mai fino allora si erano divertiti tanto nella scuola, né mai più in seguito. Ignazio Oliva ha letto Il letto di Plutogasari di Selma Lagerlof, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it